Ribadiamo ancora una volta la necessità e la richiesta all'amministrazione comunale di fermare i lavori, fermare il cantiere, venire ad ascoltare gli abitanti del quartiere. Non ci è stata fino adesso negata questa possibilità, i lavori procedono e il Rione e tutti quelli che sono solidali con la popolazione del Rione, che è contraria a questa opera, chiedono ascolto. È un modo, in un punto centro simbolico della vita della città, anche da un punto di vista storico, per rilanciare quelle che sono le nostre ragioni. È stato pubblicato un video del sindaco in cui parlava del progetto, ma come commentate questo video? Quel video e le cose che in questi giorni è andato ripetendo si commentano da sole e comunque testimoniano intanto di una debolezza sia di ordine politico sia di ordine scientifico. Oltretutto si fa riferimento a cose, indicazioni che sarebbero venute dai bambini quando noi abbiamo gli insegnanti che hanno partecipato a quella consultazione, che dicono, dati e verbali alla mano, come sono effettivamente andate le cose in quella consultazione, che era soprattutto una richiesta ai ragazzi di immaginare come volevano quello spazio, quel parco. Nessuno ha proposto a quei ragazzi di costruire un museo sul loro parco, anzi chiedevano una riqualificazione del parco, dei giochi, degli spazi, del verde. Questa è la realtà. Di fronte a questo tipo di, come dire, falsificazione della realtà, possiamo soltanto opporre i documenti, le prove e il pensiero scientifico, pedagogico, educativo che sta dietro il lavoro non di oggi e non rispetto al MUBA, ma di decenni di scuola al Pilastro e nella città. Quindi direi che questo è il primo punto. E il resto è propaganda. La stessa idea di fare un convegno l'11 di aprile, ma che significa? E se alla fine dei lavori di questa discussione ci dovessero dire che effettivamente non va bene lì, però che peccato, ormai ce lo teniamo perché l'hanno costruito, è un fumogeno, è una cortina fumogena ed è il tentativo di raccogliere il consenso di quella parte di bolognesi che sicuramente esistono, che però credo siano la minoranza, che non hanno a cuore il verde pubblico, la natura e la pedagogia, e hanno invece a cuore altri interessi che sono legittimi, ma sono legittimi fino al punto in cui non ledono un diritto dei bambini e della popolazione di un intero rione. Oggi pomeriggio dalle 4 saremo in Piazza Maggiore e portiamo le ragioni di questa protesta, di questa lotta e anche delle domande e delle risposte che come Comitato Mubasta, come residenti del quartiere, come cittadini bolognesi che vivono nella città condizioni simili di devastazione del verde a favore della cementificazione del profitto devono essere ascoltate, devono essere prese in considerazione per fare quello che è necessario al Pilastro come nel resto della città e non quello che indicano invece i portatori di interesse economico. Io mi riferisco in particolare al settore commercio e al settore edilizio.